falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, e ti avrò. Una delle più belle voci del Novecento, così è stata definita la cantante alla quale dedichiamo la puntata di oggi. Una donna, un artista che ha veramente saputo dare un colpo d'ala, scegliere cosa fare della propria vita, come gestire il grande dono ricevuto, cioè la sua voce, unica e straordinaria. Stiamo parlando di una donna con una vita piena di avvenimenti e di scelte coraggiose, Juni Russo. Se qualcuno avesse un colpevolissimo vuoto di memoria, ascoltate queste poche note e capirete subito di chi si tratta. Un'estate al mare, chi non l'ha cantata o anche solo sentita, è una delle canzoni vacanziere più gettonate e ha avuto un grandissimo successo agli inizi degli anni 80. Nel 1982 è stato il più grande successo commerciale di Juni Russo, la canzone che l'ha fatta conoscere al grande pubblico e che l'aveva anche resa in quegli anni molto famosa. Ma Juni Russo è molto più di questa canzone, che non le rende pienamente giustizia. Oggi noi vogliamo ripercorrere la sua vicenda per ricordare la grande artista che era. Cominciamo da colui che ha il merito di averla resa famosa, cioè l'autore della canzone Un'estate al mare. È un artista famosissimo, ma certo non popolare, perché è Franco Battiato, con il quale Juni aveva stretto un importante sodalizio artistico. Sentite cosa dice Battiato in un'intervista che gli fece Amanda Lear. Che ricordai di Juni? Beh, un talento naturale, sì, sbalorditivo, sì. La prima volta che la sentì cantare fu a casa mia. Rimasi sbalordito perché la sua potenza vocale andava di pari passo con la sensibilità musicale, cosa difficile, perché quando hai una voce potente di solito sei un po' grossolano. Lei univa le nuance più raffinate. Eh sì, è vero, la musica di oggi lo dimostra. Quando hai una voce potente di solito sei grossolano. Mi vengono in mente 30 cantanti con questo difetto. E Battiato invece parla di nuance raffinate. Racconta di essere rimasto impressionato dalla sua voce, ma anche da lei come persona, come donna. È una donna nata nella sua stessa terra, perché Juni era siciliana come Franco. Giuseppa Romeo si chiamava all'anagrafe, nata a Palermo il 7 settembre del 1951. Suo padre era un pescatore, ma di quelli insomma piuttosto benestanti. La madre era una soprano naturale, cioè cantava da soprano senza avere mai studiato. E Juni Giuseppa nasce con il dono. Fin da piccolissima canta divinamente, è una compositrice raffinata e ha già capito che quella sarà la sua strada, la sua professione. A 16 anni, cioè nel 67, partecipa e vince al Festival di Castrocaro, interpreta la celeberrima Aki di Fausto Leali, che ha portato a successo Fausto Leali, e questa vittoria la porta direttamente a Sanremo, perché in quegli anni chi vinceva Castrocaro partecipava d'ufficio al Festival. Lei va a Sanremo nel 68 con il nome di Giusy Romeo e canta una canzone con parole di Vito Pallavicini e musica di Paolo Conte e Enrico Intra, quindi tre bei nomi. La canta in abbinamento, perché allora si cantava in coppia, con un francese abbastanza famoso che era Sacha Distel. La canzone si chiama No Amore. No amore, dico no, anche se negli occhi miei sono fermi gli occhi tuoi. Oh, testa non girare più, no, no. Cuore non parlare più, no. lei a 17 anni canta già molto bene, queste sue doti interpretative le consentono di avere partner illustri, perché insomma per una semi sconosciuta cantare a Sanremo una canzone di Conte, Inter e Pallavicini non è cosa da poco, però insomma la canzone non è proprio meravigliosa, poi in quegli anni c'erano grandi canzoni, insomma la concorrenza era molto agguerrita, lei non arriva in finale, peraltro le sviste sanremesi sono clamorose, in quel Sanremo non venne ammessa neanche in gara una canzone di Modugno che era meraviglioso, insomma una canzone che ebbe poi una lunga storia. Già di quel Sanremo Giusi parlerà così. Ero troppo giovane, non mi piaceva la canzone, un'imposizione, questo ricordo. Quindi Giusi, Romeo viene eliminata, non si scoraggia, nel 69 si trasferisce finalmente a Milano che diventa la sua città di adozione, fa anche un incontro decisivo per la sua vita, conosce Maria Antonietta Sisini che per ben 36 anni sarà la sua coautrice, produttrice, la persona che le rimarrà vicino fino alla fine e che dice questo di lei. Lei non ha fatto niente che non le piacesse, lei era un'artista che aveva un moto. L'artista deve evolvere, se sta fermo è perduto. Giusi Romeo, come si chiama ancora per il momento, non ci pensa proprio a stare ferma e intanto la divisione italiana dell'etichetta discografica tedesca BASF, vi ricordate quelli che facevano anche le cassette, le propone di firmare un contratto, nasce un altro nome, Giuni Russo con la J, perché la casa discografica vuole lanciarla sul mercato internazionale come cantante italo-americana e nel 75 arriva un primo album che si chiama Love is a Woman e dove Giuni inizia a scrivere e musicare i suoi testi insieme a Maria Antonietta Sisini, però è un album di ispirazione anglosassone, interamente scritto in inglese e nonostante lei sia un'artista vera, questa cantante italo-americana è inventata a tavolino, quindi non può avere un grande successo. Lo vediamo tra poco. Giuni Russo, Giuni con la J, cantante italo-americana, non ha il successo sperato proprio perché insomma l'operazione è un po' costruita a tavolino dalla sua casa discografica tedesca BASF, così lei inizia a peregrinare tra varie case discografiche, intanto dal via ad alcune collaborazioni con Cristiano Malgioglio, con il quale scrive canzoni per Rita Pavoni, Iva Zanicchi, Amanda Lear. Anche lei incide una canzone, Soli noi, scritta con Malgioglio, che ottiene un buon successo in Francia, ma in Italia passa inosservata. Giuni è scoraggiata, l'impressione che ha è che il suo paese non l'apprezzi, che non comprenda la sua voglia di ricerca e di sperimentazione. Avendo un'estensione vocale e amando proprio la ricerca della vocale, cioè io ho studiato da bambina, però cantare così normalmente non mi ha mai fatto piacere, mi faceva sentire banale. Beh, l'aggettivo banale ha poco a che fare con lei e con la sua vocalità, però lei non riesce ancora a esprimersi come vorrebbe. A un certo punto, a un momento in cui si scoraggia, sta pensando di lasciare e per fortuna un grande chitarrista e produttore che è Alberto Radius, già leader della Formula 3 e musicista iperattivo nella scena italiana per decenni, la sente, intuisce le sue potenzialità e le presenta all'uomo che darà una svolta importante alla sua carriera, perché le presenta Franco Battiato. Siamo nel 1980, lui non è ancora il Battiato dei grandi successi che arriveranno di lì a poco, però lui rimane intanto è folgorato dalla voce e dalle capacità interpretative di Giuni, al punto da raccontare cose di questo genere. Era una donna piena di energia, vitale e quindi contagiosa. La vocalità di Giuni Russo era un miracolo, quindi è proprio difficile, un'estensione vocale veramente impressionante, però questo non significa comunque quello è un aspetto tecnico, ci può essere, come l'hanno dimostrato tanti, anche una mancanza di quantità di voce, di potenza e di estensione. È lo stesso, dico, prendiamo Bob Dylan, no? Con una vocetta fessa come quella lì, apparentemente, invece secondo me un cantore di altissimo livello ha incatenato milioni di persone al suo genere, no? Sentita dal vivo era impressionante, poi andava su in alto in zone incredibili, proprio un'estensione vocale senza limiti, veramente aveva dei sovracuti che superavano non ci sono note sul pianoforte corrispondenti, insomma, no? E poi siciliani, quindi lei ci univa proprio, è una cosa che hanno gli isolani soprattutto, perché è più difficile trovare sulla terraferma questi sentimenti, no? Forse perché si è proprio isolati in qualche modo, no? Contornati dal mare. Così Franco Battiato e Giuni Russo si trovano, sarà perché sono tutti e due isolani, siciliani, sarà perché sono sperimentatori, insomma c'è una collaborazione che nasce e cresce con i migliori auspici. C'è un team di lavoro dove c'è Alberto Radios che li ha fatti conoscere, Maria Antonietta Sisini onnipresente, Giusto Pio, altro grande musicista, violinista, arrangiatore di grandissimo talento. Il gruppo realizza tre brani che sembrano cuciti addosso alle capacità vocali e interpretative di Giuni: Crisi metropolitana, L'addio e Una vipera sarò. Questi tre brani vengono sottoposti all'ascolto dell'etichetta discografica CGD, dove a occuparsi dei nuovi progetti c'è Caterina Caselli, e anche lei rimane folgorata dalla voce di Giuni, e nel 1981 lei firma un contratto, peraltro si dice insomma molto poco favorevole a lei, con la CGD per 5 anni e 5 album. Il primo che viene realizzato si chiama Energia, resterà per sempre il punto di riferimento della carriera artistica di Giuni Russo, un album di sperimentazione, di avanguardia, si potrebbe quasi definire rivoluzionario, sia per l'uso delle sonorità innovative di Franco Battiato, sia per l'utilizzo strabiliante della sua voce. Finalmente Giuni si sente soddisfatta. C'era un nucleo di lavoro, un'unione che ancora oggi io credo di aver ragione per quello che diceva Franco in quel periodo. Dicevo, stiamo nel nostro gruppo di lavoro, così almeno per qualche anno sono sicura che faremo delle cose bellissime. Per il lancio di Energie la CGD organizza una nutrita serie di eventi promozionali, programmi televisivi e radiofonici. Io mi ricordo per esempio un filmato molto bello di queste sue canzoni a Mr. Fantasy, il mitico programma condotto da Massarini. Il progetto va bene, anche se è un prodotto di nicchia, ma mi sembra che tutto fosse avviato verso il grande successo. Insomma, la CGD sta cercando il botto, e così Battiato e Giusto Pio scrivono una canzone per Giuni che ha caratteristiche un po' più commerciali. È una canzone di valore, tiene sempre conto di chi andrà a cantarla, le viene data la possibilità di esprimere al meglio tutte le sue potenzialità, e addirittura nel finale del brano la cantante imita il verso dei Gabbiani, e anche noi con Luigi Speciale abbiamo copiato questo atteggiamento nell'introduzione del nostro programma. Insomma, la sua estensione vocale viene sfruttata a pieno. Bene, la canzone in questione è Un'estate al mare, il più grande successo di Giuni, che la consacra presso il grande pubblico, e resta il brano vacanziero per eccellenza, però comunque una canzone di classe dove il timbro della premiata ditta Battiato Giusto Pio si sente, e come. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente per paura di affogare. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Giuni Russo, una cantante straordinaria, una grande interprete, grande donna, cantautrice di grande livello. Stiamo ripercorrendo la sua vita, la sua carriera artistica, partita con una gavetta dura, lunga, sofferta, e anche un momento nel quale lei stava cercando la sua, come dire, dimensione sonora, il suo stile espressivo giusto. Siamo arrivati all'82, l'anno del boom, il boom di Un'estate al mare, canzone che andò benissimo, è diventato uno strasuccesso e ballata ancora oggi, però che in qualche modo riesce a coniugare un certo stile tipico del ditta Battiato, Giusto Pio, Radius, eccetera, con la voglia di scrivere una canzone decisamente commerciale. Comunque, per Giuni questa non è ancora la sua canzone ideale e un po' accetta di cantarla anche perché spinta dai suoi discografici. Diciamo che il successo è stato un po' costruito dai miei produttori, cioè mi hanno così dolcemente imposto di fare una canzonetta. Allora io lì mi sono trovata un po' con le spalle al muro, però ho sentito la canzonetta e ho detto sì, però è carina, l'accetto. Ma pensavo di ritornare poi all'album che avevo fatto precedentemente, che era Energie. E questa è la trappola nella quale cascano in tanti, cioè fai la canzone più facile, ti dicono, così poi quando hai successo torni a fare le tue cose più impegnate. Poi quando hai successo ti dicono, beh, ma ormai il pubblico vuole queste cose, perché devi tornare indietro? E quindi quella che doveva essere una divertente parentesi diventa una fonte di guadagno e quindi un po' una linea editoriale. Quindi lei comincia a diventare un po' quella che passa attraverso spiagge, ombrelloni, canzonette leggere. Lei si ribella inizialmente, realizza con Battiato un nuovo album Vox contro il parere della Caselli, poi però deve arrendersi e va al Festival Bar con Sere d'Agosto, che è un po' una replica di Un'estate al mare. È il 1983, il patto è che Giuni sia l'artista di punta per il Sanremo successivo, il patto con la CGD. E poi succede qualcosa che è la stessa Giuni a raccontare. Dovevo andare a Sanremo, poi la mia discografica invece ha scoperto che c'era Patti Pravo in giro che cercava un contratto discografico, l'ha preso tutto contratto e ha mandato lei. Ecco, è successo questo. Io me lo ricordo bene quel Sanremo 84, perché la CGD mandò a Sanremo appunto Patti Pravo, come ha appena detto Giuni, e mandò a Sanremo me, e Giuni rimase fuori, c'erano due posti per tre persone. La mia discografica, come la chiama Giuni, è Caterina Caselli. In effetti Patti Pravo sbarca in CGD con un bel contratto e lei, Giuni Russo, giustamente insomma ci rimane male. Nel frattempo lei con Maria Antonietta, con la Maria Antonietta Sisini, scrive un nuovo album che si chiama Mediterranea, e l'album non piace alla Caselli, il rapporto comincia a incrinarsi. C'è solo un brano che può funzionare, e infatti funziona, che è Limonata Cia Cia Cia, l'unica canzone più vicina al genere che la CGD vuole imporre a Giuni. Insomma, a questo punto è inevitabile il cambio di etichetta e lei decide di chiedere alla CGD una liberatoria. Ascoltatela, perché è lei stessa a raccontarlo. Praticamente la mia casa discografica voleva continuamente dei 45 giri, delle canzonette, mentre io volevo crescere. Allora è successo, a un certo punto io ho detto adesso basta, cioè o cerchiamo una strada diversa che è più consona alle mie cose, oppure lasciatemi libera. Allora quel lasciatemi libera, qualcuno, la mia discografica si arrabbiò moltissimo, io sono, diciamo, mi sono resa libera con una liberatoria che mi avevano anche scritto che avevo, però diciamo c'è stato un attentato, lo diciamo, non l'ho mai detto in vita mia, alla carriera. Cioè sì, hanno fatto di tutto perché io smettessi di cantare e appendere le scarpe al muro. Sì, sì. Dopodiché chiaramente questa cosa qua mi ha creato uno stop nella carriera. Sì, e una sofferenza enorme, enorme. Veramente succede un po' in tutto il mondo, ma io sono capitata proprio in mano a una persona che la definisco musicalmente Medea, quindi ha avuto tanti, diciamo, figli cantanti, ma non ce n'è uno vivo. Eh sì, parole di grande amarezza, insomma, succede di litigare con i tuoi discografici, succede di cambiare casa discografica. E succede anche che la vecchia casa discografica in qualche modo ti fa la guerra, o magari pubblicando, ogni volta che esce un tuo disco, pubblicando un best vecchio per disturbare il mercato, e questa è l'ipotesi migliore, ma si racconta che ci siano anche battaglie molto più aspre di questa. E quindi lei si mette contro una casa discografica che era una delle più importanti dell'epoca, e lei però non vuole rinunciare ai suoi sogni, cerca un altro colpo d'ala nella sua vita. Io, vedete, non ho mariti, non ho figli, ti mancano? Ho pazienza, mancano, no, non mi mancano, no. Assolutamente per niente, per favore nessuno mi faccia la corte, perché non ce n'è. Non sono libera. No, io sono libera. Sei e voglio, libera? Certo, essere libera. Io vivo per la musica, per cui io non ho avuto paura di non avere un soldo, di dare a mangiare al mio amante, ai miei figli, niente. Ho detto va bene, io piuttosto muoio di fame, ma desidero intraprendere la strada che mi sono prefissa fin da quando ero bambina. Sì, non stiamo parlando di un'ingrata del successo, stiamo parlando di un artista che accetta passivamente per un attimo la strada che le viene indicata, e poi rinnega quello che ha fatto, non per aver sputato nel piatto in cui mangiava, ma semplicemente perché ha ben chiara qual è la sua dimensione. Avevo bisogno di maturare, cioè mi si chiedevano continuamente delle canzonette che ho fatto con piacere, che rifarò, perché voglio dire, il divertimento nella musica, se manca, è la fine. Può anche succedere che quando litighi con una casa discografica in qualche modo nasce una specie di embargo, cioè anche le altre case discografiche sono meno propense a offrirti un contratto, quindi bisogna dar atto a una piccola etichetta che si chiama Bubble Record di aver avuto coraggio. Nell'86 finalmente vede la luce l'album Giuni, scritto interamente con Maria Antonietta Sisini e che contiene un altro grande successo di Giuni Russo, la celeberrima Alghero. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere che voglio andare ad Alghero, canzone allegra, divertente, ma anche una canzone di buon livello, racconta in maniera molto ironica una disobbedienza femminile, una escursione nascosta con uno straniero che la madre non deve scoprire. E l'idea della canzone nasce in aereo durante un volo Roma-Alghero non molto allegro, perché Giuni e Maria Antonietta stavano andando al capezzale della mamma di Maria Antonietta che stava morendo, però la canzone esce così, è un successo che si consolida negli anni e Giuni dimostra a tutti che ha fatto bene a non mollare, a non cedere. L'anno dopo, nell'87, esce con la Bubble Record album che contiene una canzone esplosiva scritta da Giuni ed interpretata in coppia con quella che un tempo fu una sua rivale, e il loro rapporto all'inizio insomma fu di aperta ostilità, poi invece diventarono grandi amiche. Sto parlando di Donatella Rettore, e ascoltiamole insieme in un'intervista a Maurizio Seimandi nella mitica Super Classifica Show. Spiego, dunque, ho inciso questo album che porta il titolo album. Sì, ecco, ho pensato che la partecipazione di una donna, soprattutto come Donatella, che ha molta molta grinta e molta forza, sei grintosa. Infatti penso che due grinte insieme facciano veramente uno scoppio di adrenalina, di quello feroce. Si pensa, la più nordica delle cantanti, io, è andata con la più isolana. Proprio va bene, comunque è un connubio che funziona, è un connubio molto molto elettrico. Strano, ecco, stranamente nel nostro essere opposte andiamo molto d'accordo. La canzone, cantata dalla coppia Giuni Russo e Donatella Rettore, è un grande successo, si intitola Adrenalina. Mi sveglio la mattina, mi fa da propulsore, ti voglio, non ti voglio, se ti voglio non lo so. Il 1988 è un altro anno di svolta per Giuni Russo, è un cambio di rotta molto importante, perché la cantante decide di dedicarsi a un repertorio d'autore con brani di alta qualità, però naturalmente non trova nessuna casa discografica disposta a rischiare. L'unico che crede in lei è il suo amico Franco Battiato, che pubblica con la sua etichetta L'Ottava l'album di Giuni A casa di Ida Rubinstein, che è ispirato alla figura di Ida Rubinstein, donna simbolo della Belle Époque. E Giuni reinterpreta arie di Donizetti, di Bellini, di Verdi. È un primo esempio assoluto in Italia della musica di confine. È un cocktail tra musica da camera, blues, jazz, musica classica. E naturalmente l'album, come moltissimi album belli, rimane nel limbo della discografia italiana e non ha un grandissimo successo, era abbastanza prevedibile. Alla domanda di una giornalista sul perché Giuni Russo non abbia avuto il successo che si meritava, ascoltate cosa risponde Franco Battiato. Non voglio fare così una sintesi di tutti gli errori storici a riguardo, però dico, neanche Bach è stato apprezzato nella sua epoca, anzi si pensava che fosse in qualche modo un compositore un po' retro, no? Ma è successo a tanti, anche da quando la musica ha iniziato ad essere importante per la società, quindi dal barocco in avanti, 500, 600, 700 ha fatto vittime illustri, ma perché diamo troppa importanza al successo, però in realtà se ne dessimo meno non ci meraviglierebbe. Parole sante, ancora più attuali oggi in questi anni di così evidente decadimento qualitativo della musica. E lei non dà grande importanza al successo, Giuni, perché prosegue per la sua strada che la porta verso una spiritualità profonda, continua a realizzare dischi, partecipa a manifestazioni di varia natura, però è sempre fedele a se stessa, alle sue scelte. E dopo molti anni di assenza, nel 2003 torna a Sanremo con una bellissima canzone che si chiama Morirò d'amore, che viene arrangiata da Franco Battiato. Quelle parole. Sentite cosa racconta Giuni Russo a Mara Venier. Devo andare a Sanremo? Voglio andare a Sanremo, ma mi ci vuole Polifemo. Chi è Polifemo? Sono andata. Polifemo, che in questo caso è Franco Battiato, e gli ho chiesto: Franco, me l'arrangi questa canzone? A lui la canzone è piaciuta, me l'ha arrangiata insieme a Roberto Colombo. Sono andata a Sanremo con una forza e con l'aiuto di Dio mi hanno presa e sono andata a Sanremo, ho avuto un settimo posto, ma perdonatemi, io mi sento vincitrice del festival. Grande Giuni! La sentite molto allegra e sorridente, però quel festival di Sanremo che io ricordo benissimo perché c'ero anch'io, cantavo con Andrea Mirò Nessuno tocchi Caino, lei era senza capelli, con i capelli coperti da alcuni capellini molto carine, e purtroppo insomma c'era un segno inequivocabile delle cure a cui si stava sottoponendo a causa di un tumore che se la porta via un anno dopo, il 14 settembre del 2004, lei ha soli 53 anni. La sua spiritualità, che lei ha tanto ricercato e coltivato soprattutto attraverso la lettura dei testi sacri e negli ultimi tempi, le ispira una canzone bellissima scritta sulle parole di una preghiera di San Giovanni della Croce, e la canzone si intitola La sua figura. E noi chiuderemo questa puntata con questa canzone dedicata alla grande Giuni Russo. Colpi d'ala come il falco e come il gabbiano, come quel gabbiano che lei sapeva riprodurre con la voce. Oggi abbiamo raccontato la storia di una grandissima artista e di una donna di grande temperamento che ha cercato di migliorarsi in ogni minuto della sua carriera fino alla fine.